la lezione. Sei solo chiacchiere distintivo, solo chiacchiere. Cinquantaquattro minuti primi, le frequenze di Radio Onda Rosso 87.9 della banda romana e laziale, la modulazione di frequenza. E ritorniamo in studio dopo una piccola pausa nella programmazione di 25 O'Clock e una trasmissione fatta invece nello stile Covid, cioè dalla nostra postazione remota. Dobbiamo dire, il sostegno di Radio Onda Rossa è sempre auspicabile e necessario. E perciò vi andiamo a ricordare una iniziativa di cui la radio è compartecipe, diciamo, organizzata dai Tirmidown, da Strike. Sabato 6 novembre 2021, sabato prossimo, Strike SPA, Roma, via Umberto Partini. Suoneranno Tirmidown, Choir, Cav Boca, Afora de Arustu, Nawitarag, Congegno, Scheletro, The Roadster, Endless Direction. Insomma, tutti loro sabato prossimo la cena. È curata dalla ormai collaudatissima cucina di Radio Onda Rossa. E quindi una serata a sostegno di Strike e una serata a sostegno di Radio Onda Rossa. Duplice significato, ve lo diciamo, e ve lo diciamo prima di ricordarvi invece le altre modalità per sottoscrivere per la radio. Vi ricordiamo il sito www.fondarossa.info, dove oltre ai podcast che vengono riepilogati appunto su la pagina principale di www.fondarossa.info, troverete anche un'altra serie di link, di tastini, per cui potrete ascoltare lo streaming o, andando su Sostieni, vedere quali sono le modalità con cui sottoscrivere per Radio Onda Rossa 61 80 40 01. Ci piace ricordarlo, è il numero del conto corrente postale da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volsci 56 00 185, Roma, San Lollo. Il recapito telefonico della radio, che quando suonate accende una lampadina rossa, illumino di rosso la radio più rossa che c'è. Onda Rossa @ondarossa.info per le vostre comunicazioni via email. Poi ci sta tutta la pletora dei social che potete contattare per poter utilizzare per contattare Radio Onda Rossa. 25 O'Clock @ondarossa.info 25 scritta al numero 25oclock@chiocciolaondrossa.info, invece è la casella di posta elettronica della trasmissione, dello spazio che state ascoltando. Cominciamo a sorpresa, sì, perché questa sera ci sono degli ospiti, però vi teniamo all'oscuro per ora. Iniziamo dall'ospite qua in studio. Possiamo dire soltanto che è una voce nota. E se suspense, almeno per questi altri 30 secondi, dai. Onda Rossa, 25 o'clock. Words and numbers spell out the price to pay. It simply states your disconnected babe. See how easily it all slips away. Scrivere è il movimento, quello con il finestrino aperto, due dita solo per sfiorarti. È il segno quando con la mano giri una clessidra a vuoto e vivi lo stesso minuto come fosse l'ennesimo. È il teatro di chi taglia nuvole di cartone e non ha il blu oltremare da mischiare con il bianco primario. È la molletta a terra sul balcone che lasci vivere, che lasci. È l'acqua sul fondo della bottiglia, quella, proprio quella, che guardi quando scende. Vederti scrivere è l'incantesimo, è magia di fata celestina con bacchetta piumata, è vederti all'incrocio mentre cerchi le strisce per attraversare e invece correre giù, veloce, lesto, lento, rinizia silenziosamente, partorire gli utenti e credere di crescerli. Questo è il pieno quando la miseria muore sui muri, le dediche sui libri sono matita, si cancellano, ti rimane il libro, quello rimane sempre da sfogliare, perché regalare un libro significa regalare il vento negli occhi e non li puoi chiudere, altrimenti ti perdi la festa. Non farlo mai. Queste sono le linee della paura, le senti la notte quando i soffitti hanno l'anima da vendersi, quando nei corridoi le voci si destano e senti le urla dei bambini che giocano, e non avere paura, non tremare, immobile nell'angolo a vedere gli orgasmi sulle donne con passo. Tu hai lividi agli occhi e non tremare, questo è il cancello dove le farfalle entrano per morire, lentamente, deve essere lentamente, non più di due parole, tre potrebbero farti perdere, vuoto, ad aprire gli ombrellini cinesi, chiudere, chiudili. Questo è il lento che si siede al tuo fianco, questo è il lago con cui apri gli occhi, non c'è tre. Questa è la voce mentre respiri, sentila, annusa pienamente, pienamente ti dico, è la voce di chi prega mentre vivi, pienamente, dolorosamente, i cardellini in volo solo stanotte, evento della meraviglia, come rovesciare i cappelli, alla finestra chiedi di te, ti risponderà, certo, nella sicurezza e perdersi nei momenti, senza punteggiatura. Alla mano devi dire di fermarsi, non può oltre, toccare il rossetto sul labbro e il dito a segnare, seguendo lune senza circonferenza. Solo trapezi per acrobati, quelli li paghiamo a soggetto, quelli, questi, e dunque si fa spazio e le manovre sono invisibili e compri il camion dei giochi del martedì. Oggi, quando vuoi superarmi, c'è la luna piena e gli acrobati sono in ferie, l'attenzione sul cartello, leggere, leggere, non ti dirò mai dove andare, ci sono posti dove le lune hanno le creste d'oriente. Allora, ci siamo. Non so come presentarlo, una voce conosciuta. Già l'ha annunciato prima, in realtà Elettrodo, insomma, Stefano Tarquini, Aka, meglio conosciuto come Ciccio dei Palcoscenici al Neone negli anni precedenti. In realtà non hai mai fatto segreto del tuo amore per la poesia, già ai tempi, insomma, che ormai penso siano 15, di 16, sì. 17 anni, non ricordo bene. Sì, forse 15 l'abbiamo appena passati. Li abbiamo passati, che frequenti questi lidi e questa trasmissione. Dicevamo già, avevamo parlato del tuo amore per la poesia, però non avevamo mai in realtà avuto occasione di dedicare proprio uno spazio apposito per questa passione e questo esercizio che fai, ecco. Lo vogliamo un po' approfondire? Ci vuoi raccontare quando nasce? Penso dagli studi, proprio da Schell, dalle scuole, sì, insomma, come succede per molti, no? Beh, è tutto naturale, è stato tutto molto naturale. Le prime amicizie che mi hanno influenzato, i primi libri, le prime cazzate fatte, insomma, tutto è andato a influire poi nella parola scritta, insomma. Non è che uno, cioè, l'esigenza di fare cose, però a me è capitato questo: ognuno fa poi quello che vuole, ognuno si rapporta con l'altro come vuole, comunque scrivere è comunicazione, cioè in qualche modo è comunicare. E anche con, insomma, col gruppo ho sempre scritto, no? Quindi, certo, tutto sommato non c'è stato tutta questa differenza. Io non l'ho mai, no? Non è stata mai netta, certo. E quindi io ho sempre scritto. Il fatto che adesso c'è un libro, insomma, è una cosa che è capitata per caso, e spero che sia il primo di poi non so di quanto, di cosa, di non, io intanto scrivo. Mm-hmm. Perché scrivere è quasi invece un'esigenza, insomma, un come dicevi te, un normale rapporto, non solo comunicativo, ma anche forse, almeno per quello che mi riguarda, insomma, facciamo la chiacchierata, no? Parliamo. Scrivere anche innanzitutto in relazione con se stessi, cioè ti aiuta a fissare. È un modo molto paraculo di, insomma, cioè ti facilita molto le cose, perché quando scrivi, cioè tu entri quasi in un personaggio, no? Nel senso, e quindi non devi dimostrare niente a nessuno, lo stai facendo scrivendo, tutto sommato è una cosa molto. È più facile di, no, di rapportarsi con una persona. Per me no, perché comunque sia io alla fine perché è troppo difficile scrivere o troppo difficile rapportarsi con le persone? No, magari le persone che scrivono, insomma, come te posso dire, voglio dire una cosa che è difficile da spiegare, però è molto facile presentarsi con una cosa scritta che tu hai pensato, hai ripensato ancora, hai cambiato una virgola, una parola, quella parola l'hai scritta 100 volte, piuttosto che invece sta, ecco, io e te davanti a te, e mo te devo dire, cioè, mo quello che ho scritto non vale più niente, perché io adesso devo parlare. Però è, insomma, è una sfida, no? Insomma, è una sfida che io ho accettato, poi e questo apre anche milioni di altri bivi, no? Però perché è una sfida, cioè, tutto sommato, perché ti rapporti comunque con un libro, perché, quindi con un'ufficialità del tuo guarda che invece è difficilissimo, e poi perché in qualche maniera metti a nudo più che con un gruppo, ma certo, ma è proprio quello, quando suoni su un palco è come se stai fai parte di un esercito, cioè tu dietro, o comunque c'hai, di un clan, di una tribù, dietro c'è una squadra, cioè tu non stai mai da solo. Quando stai sul palco io non sto mai da solo. E invece adesso sì, anche se adesso sto con te, però io sto parlando di una cosa mia, solo mia, che poi dentro c'è tutto quanto il mio vissuto, quindi tutte le mie amicizie, tutti i miei fratelli e sorelle, le donne che ho avuto, le donne che non ho avuto, i campari che ci siamo bevuti fino a mo', però io adesso sto da solo, Sarebbe bello che c'è Girame e c'è Stallelli che sono la chitarra e Brizzo che sono il basso, però non ci stanno adesso. E tutte queste persone che appunto però stanno questa vita che comprende quindi i rapporti, le persone che stanno dentro quello che scrivi, in realtà però vengono, rimangono celate là dentro, non c'è una allora, loro lo sanno, e, però insomma la poesia permette, almeno la forma poesia permette tutte le canzoni che ho avuto la fortuna di scrivere, cioè tutti i testi che tante persone ci si ritrovano perché parlo proprio di loro, magari non dico il nome, però cioè, fortunatamente ho parecchio vissuto e quindi ho parecchio materiale umano da poter infilare dentro alle parole, all'impastatrice delle parole. Certo, e quindi poi dopo anni magari uno ti fa: ma là stai a parlare di me? sì, là stavo a parlare di te. Non ho mai detto il nome perché vabbè, si tende, no, a universalizzare la cosa, certo. Però non puoi mai prescindere dal tuo vissuto, certo. Come fai? No. Cioè non mi posso mettere dentro a un ragazzo che abita ai Parioli, oppure uno che abita nel Nepal che ti porta la tenda se gli dai 100 lire, non è impossibile, ho fatto un'altra vita e quindi parlo di quello. E parli del tuo luogo, quello ne abbiamo già tante volte parlato, che essenzialmente è la provincia. È la provincia, la periferia della grande metropoli. Allora, vabbè, poi vediamo, poi facciamo una cosa. Questa cosa che hai letto, diciamo, era metafora. Questa cosa che ho letto. Piccolo poemetto, insomma. Questa non è mia. Perfetto. Ci tengo a dirlo perché è molto importante, perché parla dello scrivere. Sì. E l'ha scritta Barbara Giuliani, che è una pescarese doc, è una grandissima poeta, poetessa o poeta come vuole lei, italiana, contemporanea, e ogni volta che mi capita di andare per radio, insomma, per fare intervistine, cosette, no, così, mi porto sempre qualcosa che non è mio, perché rompo il ghiaccio con le parole degli altri che a volte è molto meglio, e le uso per rompere il ghiaccio, però in questo caso lei ha fatto un focus proprio fondamentale su quello che è scrivere, cioè, e quindi secondo me parla molto di comunicazione, che c'è un bisogno proprio di esprimersi e niente, è rivelatore di anche certo. Diciamo la tua esperienza, sì, ti ha portato anche a trovarti copia di quelle parole, sì, insomma, sì, in sì, qualche sì. modo. No, ma io lo faccio anche col gruppo mio, insomma, ho sempre dato spazio a tutti quelli che volevano entrare o comunque sia collaborare in qualsiasi modo, quindi ben venga, non, nessuno l'ha mai fatto con me, però io lo faccio perché l'ho fatto così. Va bene, allora io direi, dato che sei venuto però a leggere le tue cose, certo, di darci subito un esempio e noi ci prepariamo poi, perché ci siamo dati questo criterio di alternare appunto una lettura e una traccia e delle chiacchiere intorno alla lettura. Vai. Letargo. Corridoi freddi più di prima. Devi accendere la luce per vederne la fine. Serrande abbassate, finestre serrate sui primi schizzi di luce del giorno che tarda ad arrivare. Porte socchiuse, sbattute senza rumore su quello che era vero. Mi specchio dentro pezzi di vetro che non riflettono. Cerco una risposta oltre me, mi accontento dei riflessi. Stanze vuote come strade vuote, mani vuote come occhi chiusi. Ma oggi tutto è fermo, gli oggi che corrono a nascondersi dietro le maschere di domani, quei sorrisi dopo tutto, quei sorrisi appiccicati alla faccia, perdono piano piano il colore primo e riportano a noi, a come siamo in mezzo al mondo com'era. Come vedi, cosa vedi oltre la porta? Un uomo debole, una donna di lana, un paese in letargo, un mucchio di parole sbagliate che prendono fuoco. 23-18 minuti primi. Allora, così, hai un po' anticipato tantissimi temi che in realtà potremmo andare ad approfondire. Però andiamo per ordine, diamo uno schema, insomma, anche perché poi nella poesia c'è uno schema in realtà, è più qualcosa di in cui la metrica è solo un ricordo, diciamo, di un modo antico, passato, di esprimere sotto forma, diciamo, di schematica, appunto, sotto forma geometrica, in qualche maniera, i pensieri che si formano. Invece, appunto, c'è un ordine, in qualche maniera, oppure è il disordine? Allora, questa è una domanda bellissima, è anche molto difficile. Allora, se adesso dico che dico la verità, ovviamente scrivendo conosco, frequento anche solo da remoto o leggo, no, molte persone che scrivono, anche persone molto giovani, e la metrica è fondamentale per la poesia anche contemporanea, e starò dicendo una cosa che magari qualcuno dice: ma che sta a dire questo? No, invece è così, soprattutto negli ambiti quelli mainstream, ok? Il mainstream c'è anche nella poesia, cioè, quindi voglio dire, non è che gli autori giovani non so tutti matti, oddio, questo no, la metrica è fondamentale. Per quanto mi riguarda, invece, no, nel senso che io trovo molta più difficoltà a scrivere un testo di una canzone piuttosto che una, chiamiamola, poesia. Il foglio bianco è talmente libero, sì, c'ha dei margini, ma è veramente libero. La musica, quella è, insomma, è proprio un buco nero, è proprio una rotaia, un binario, è dittatoriale. Cioè, tu c'hai quello spazio, devi dire 12 sillabe, 13 sillabe, 4 sillabe, devi dire la cosa meglio, che il concetto più bello che puoi, che vuoi esprimere, lo devi dire in quello spazio con quel tempo, e non scappi. Il foglio bianco ti dà un po' più di libertà. Io, per quanto mi riguarda, sono più per la musicalità delle parole, perché ho sempre visto quello, cioè il ritmo, no? Magari mi faccio prendere più dal ritmo. Invece ci sono poeti con la P maiuscola anche di 20 anni, anche di 21 anni, proprio, te lo dico proprio tranquillamente. Ma adesso, no, 100 anni fa la metrica, no, anche adesso, che non si scappa, cioè endecasillabo, punto. E vabbè, ma tanto io mi troverò sempre a fa' altro, quindi comunque, cioè, insomma, ti tiri un po' fuori di, ma di sì, perché non, cioè, nel senso, ma perché non ti piace, ma probabilmente provato, non sono in grado, no, bene, sicuramente non sono in grado, non mi interessa, non sono in grado, lo dico sinceramente, non mi interessa, lo dico sinceramente. Cioè, perché? Vabbè, io scrivo molto semplice, cioè, proprio. Anzi, probabilmente sono un po' più contorto nei testi dei palcoscenico piuttosto che nello scrivere. Un po' più d'effetto, forse. Ma sì, nel senso, cioè, la poesia ha anche tre righe. Cioè, non è che devi per forza scrivere la Divina Commedia. Cioè, per me, E quindi, se in tre righe hai detto tutto, in tre righe hai detto tutto. Dunque, andando per ordine anche nella trasmissione, perché abbiamo parlato finora così di, e abbiamo ascoltato più che altro, invece dal punto di vista proprio fisico, c'è questa esperienza, cioè proprio materiale, c'è questa esperienza tua con la poesia, che invece è tutt'altro che materiale, certo. Poi andremo a discutere anche di questo. Però decidi, a un certo punto hai l'occasione, insomma, ci vuoi raccontare perché nasce questo voler fissare poi su un libro ufficiale? Ma è sì, edito da un editore, da una casa editrice. Allora, diciamo che a una certa, un certo punto della vita stavo, della mia vita, cioè nel senso negli ultimi 2-3 anni stavo molto up, e quindi ho ricominciato a scrivere, perché paradossalmente perché te lavori, no, per guadagnarti da vivere. Eh sì, io sarei operaio, quindi non è che le royalties di questa opera d'arte non mi daranno mai da mangiare. E niente, praticamente non lo so, si pensa tante volte alla persona che scrive come lo sfigato, il disperato. E invece quando sono disperato, io non faccio un cazzo, neanche scrivo. Cioè, quindi vince la depressione. Magari bevo, ma non scriverò mai. Cioè. E invece, insomma, ho visto delle cose che mi hanno proprio esaltato. E ho ricominciato a scrivere, una cosa che avevo smesso tanto tempo, perché lavoro, famiglia, lavoro, famiglia, suonare, palcoscenico, concerti, qua ci vuole anche tempo, certo. Ce ne vuole anche. Certo. E niente, mi sono trovato in cameretta da solo, proprio come quando avevo 16 anni, davanti al computer. Vabbè, cazzo, in 2 anni ho scritto 60 poesie, adesso le mando in giro. Le mando in giro come facevo con i demo del gruppo, no? Cioè, sono ritornato al 2003, quando ho smesso di scrivere, insomma, praticamente. E niente, mi è capitata questa occasione, l'ho fatto perché. Quindi, questa raccolta nasce, che arco di tempo comprende? Negli ultimi 2 anni. Negli ultimi 2 anni. E però parlavamo, tutti penseranno, vabbè, ecco. No, invece non c'entra niente. O c'entra poco? No, c'entra poco. Si chiama Giorni Furiosi, ma non c'entra proprio niente col. È completamente il titolo è stato un caso, perché l'editore non gli andava bene quello che no, te lo dico tranquillamente. Gioco, io c'avevo un altro titolo in mente, La cucina vigliacca, che me lo porto davanti da quando sono ragazzetto. Io penso che te tantissimi anni fa mi hai regalato quello che si chiamava proprio La cucina vigliacca. Perché io già l'ho fatto, però dice cazzo, scrivo un libro per la prima volta, me lo pubblicano, lo chiamo come lo volevo chiamare. No, perché no, di qua e di là. E avevo fatto un piccolo, sai, apri il libro, cioè le prime 2 righette, no? Tipo le tetiche, no? Mentre cerco il senso di questi giorni furiosi. Ok. Che tutti quanti penseranno, ma sarà la pandemia. Vabbè, ognuno pensasse quello che vuole. Non era quello, comunque, vabbè. Quello è il titolo. Cioè, fatto. Ma scusa, ma che cazzo di titolo è lungo? Ma che c'è? Cioè, capisci? Perché? Perché quello? Io l'avevo messo dentro una frasetta, no? Un intro, un outro, no? C'avevo anche la frase finale, ok. Vabbè, insomma, c'è stata una lotta intestina interna alla casa editrice. E fatta, senti, la fame i giorni furiosi. Proprio quello, la cucina vigliacca, proprio la poesia. Fame i giorni furiosi. Vabbè, i giorni furiosi. Quindi, dopo una trattativa. Trattativa è stata estenuante, però. No, non è vero, è stata molto più. Serena. Sì, no, ma te. Anche perché poi, insomma, è stata abbastanza un'occasione, una cosa, sì, insomma, sì, per sì. Stare contento di trovare. Allora, guarda, il discorso di andare in giro con un libro in mano cambia tutto. Ok, cioè ti apre delle porte che, no? Anche se in piccolo, perché cioè, non è che. Anche se in piccolo, ti apre delle porte che non pensai di. Comunque non avevi mai avuto l'occasione di aprire. E infatti adesso usciranno anche altre cosette che vabbè, poi insomma ne avrà. Quando usciranno ne parleremo. Ne parleremo. E già c'ho l'altro libro pronto, cioè proprio dedicando. Si batte il ferro finché caldo, insomma. Sì, sto andando proprio, mi sto a mettere la computer, schermo. Comunque non scrivi a penna. No, perché allora io ho cominciato a scrivere a penna, certo. Come tutti, ok. Certo. Poi ho ereditato una Olivetti, una macchina a scrivere, proprio tic tic, proprio sai, no? Un bucio di culo, bellissima, una cosa stupenda che però. Molto romantica, ma poco. Sì, molto, ma poco funzionale. Anzi, non so neanche più dove sta, sì, non lo so, vabbè, comunque. No, scrivo al computer, anche perché non riuscirei neanche a volte a decifrare quello che. tanto okay. sono i ritocchi e la manipolazione proprio sulla parola, sulla frase, sul... Ma c'ho un... me lo porto sempre al cellulare, un... c'ho un gruppo con me stesso che... in cui mi riposto sempre le cose cambiate e quando è in bella poi la salvo in qualche modo. Va bene, allora sei pronto per prepararti a un'altra lettura? Come no? Noi prepariamo la traccia successiva e te vai tranquillamente, io ti lascio la base. Ok. Vabbè, questa è per Claudia, visto che ne abbiamo parlato prima. Ovviamente, sì, Claudia del Dal Verme, insomma. Sì. Sappiamo. Sapessi le volte che ho provato a scordarti, a lasciar svanire il tuo viso, ricordo, in un labirinto di ossa e tendini, a disinnescare questo sovraccarico in cui perdo parti di me, alimentando un oblio, amica di tenebra, per farmi inghiottire e sputare via. Sapessi le volte che ho provato ad ucciderti e lasciarti scivolare oltre il bianco delle polaroid appiccicate al frigorifero, abbassando il volume della musica fino a sentire solo silenzio, spia, e spegnere le stelle ad una sospeso nella notte ebraica. Sapessi le volte che ho provato a nascondermi, ma ogni cosa mi riporta a te, al nostro spazio illuso e dissacrato, al nostro tempo sacro speso a vivere, mai a dividere. Tegole di carta cadono come attimi sopra un brivido. minuti primi, le frequenze di Radio Onda Rossa 87.9 della modulazione di frequenza della banda romana e laziale. 25 o'clock questa notte si occupa di parola scritta, di parola letta, di poesia essenzialmente. Ci siamo? Sì. Allora, dunque, affrontavamo il problema appunto della inizialmente della dell'utilizzo della parola e del modo di lavorarla. Ecco, invece sugli argomenti, cioè mi spiego meglio. Veniamo da due giorni in cui due o tre giorni fa, insomma, ci sono stati il vertice, il G20, il vertice sul clima. Veniamo da un periodo, insomma, di subbuglio in qualche maniera, di cui il Covid è stata anche una degli inneschi, delle contraddizioni, no? Che si sono create appunto in questa epoca travagliata. Ecco. E Stefano Tarquini invece fa un libro di poesie, come dicevi te, in cui guardi un tuo intorno, certo, tutto sommato abbastanza vicino, no? Con un orizzonte abbastanza corto rispetto, sì, a te. Come ti rapporti appunto poi invece con un mondo molto più grande, con una dinamica, cioè è necessario per forza rapportarsi con questo mondo, con questo contorno enorme che esiste, che è immanente, insomma com'è il tuo rapporto poi con i grandi temi, almeno nella poesia, ecco? Non voglio che ci sia, assolutamente, perché spero che tutte queste cose che tu hai citato finiscano, spariscano, mentre invece la poesia resta, quindi cioè non dico nulla di nuovo, cioè nel senso non è che resto io, restano le parole che ho scritto io morirò, andrò a finire nella terra, ritornerò cenere con quello che è, se decette cenere ritornerai, le parole rimangono, il G20 sperano, i personaggi, le facce da cazzo del G20 spero che muoiano tutte prima di me, e il Covid spero che finisca prima di me, ma la poesia resta. Non lo so, magari 20 anni fa, 15 anni fa c'avevo esigenza, sentivo l'esigenza di parlare di, no? Anche di della idea. Sì, sì. Adesso penso che non lo so. Lo pensi te oppure essendo te in qualche maniera un vate della periferia? No, cioè la mettiamola su questo. Tutto sommato. Sei mai un vater? No, assolutamente non sono. Cioè, forse niente. Non gli. Sì, no, però io rispecchi, no, ti parlo forse di me. Questo. No, ti parlo di me. Cioè, comunque sia. Non, oggi non mi sento proprio in vena di rappresentare. Di rappresentare niente, nessuno, se non il mio dentro. Che poi il mio dentro comprende anche te, che adesso stiamo parlando, ma siamo amici da 20 anni, da 15 anni, è un altro discorso. Però che l'attualità, la cronaca, o Pomeriggio 5, o Il Grande Fratello, o qualsiasi altra cosa vada a entrare, ma non esiste proprio. Ma state bene dove state. Anzi, stanno bene dove stanno. Quindi quasi. No, te lo dico da. Cioè, te lo dico da invece ammetti... che ho scritto no. molto dell'attualità. Sì, però c'avevo un'altra età, un'altra testa. E adesso sto non pensi comunque che questo mondo pesante intorno che c'è mi comunque abbia influenzato? No, comunque entri in qualche maniera. Beh, dentro. Quello è fisiologico, però cerco proprio di tenerlo fuori. Sì, sì. È proprio un esercizio, sì, questo. Sì. Ma assolutamente sì. E me ne vanto pure. Certo. No, cioè, lo so che questo magari non è il luogo adatto dove dirlo. No, assolutamente. Però no, invece voglio che il è significativo. Che, no, non no, voglio no, che no. entri nella, cioè assolutamente. Allora, ho fatto due. Mo, adesso usciranno. Ma no, per farti. Sì. Per, sì, no, per l'esempio. Esplicito, okay. Sì. Due libri di racconti usciranno a breve. Ok, sono 30 racconti. Ho fatto una citazione su 30 racconti, quindi 30 racconti, no? Pagine, parole e parole. Ho fatto una citazione di, penso, 4 righe in cui un personaggio che è mio padre, in questo, in quel caso, vede la televisione e il telegiornale dice una frase su una presunta malattia esotica che, no? Certo. Che spaventa, ma 4 parole coi puntini, certo, su 30 racconti, certo. Cioè, quindi il non lo so, il, per adesso scientemente hai deciso di sì, sì, senza di creare dei tutto. Filtri, di creare dei filtri fra il mondo che va al di fuori dei rapporti interpersonali, no, umani, cioè, parlare di cose di cui vale la pena parlare, certo. Cose di cui forse hai pure competenza, perché poi alle volte parliamo anche di cose veramente troppo più grandi di noi, di cui abbiamo semplicemente, cioè, rischiando semplicemente di vomitare degli slogan, no? Perlomeno parlando di me, so, mi conosco talmente bene che non posso essere presuntuoso. Esatto, magari puoi sbagliare, ma perlomeno dici la verità. Ecco, cioè, più sincero di così, parlo di me. Quindi so di cosa so, basta, appunto. Ti va bene? Non ti va bene? Cazzi tuoi. Certo. Però potrebbe anche essere un inizio sui grandi temi, no? Se almeno avessimo l'umiltà di parlare di noi stessi con sincerità, forse le cose potrebbero andare bene anche. Ah, certo. Nel magro. Sì, ma tanto non è mai così, no? Cioè, certo. Quindi vabbè, una forma di surrealismo, diciamo, rispetto veramente a una realtà che ci ha nauseato. Non lo so, ecco, non lo so. Cioè, allora, per essere Pasolini, non voglio per essere Pasolini, poi so devi essere tu, Pasolini. Cioè, capisci? Certo. Per essere, no, vabbè, dico Pasolini. Se per essere Pasolini, poi che parla del reale, poi devi essere pure Pasolini, però. Quindi io sto benissimo dove sto, tranquillo, seduto qua col Campari, certo, posto. Senza problemi proprio. Va bene. Allora, detto questo, quanto pensavi di leggere ancora? Così, tanto no, per darci... basta. No, no, vabbè, dai, qualcosa. Guarda, faccio proprio due salutini al volo, come facevamo. Questa era una roba proprio che, sai, non sopportavo, però te l'ho sempre tollerato. Sono 6, quindi. No, no, però ci leggi un'altra cosa finale, dai. Sì, faccio i saluti, poi ritorno in me e te la leggo. No, gliel'ho promesso, quindi. Sì, sì, sì. Vabbè, Paolo, Fulvio, Brizio, Cristian, Verusca, Daniela, mia cugina, e Gigi. Grazie. E quindi... questa è la vera poesia. Sì, sì, sì. No, non l'ho fatto perché lo facevo con i palcoscenico, ti ricordi? Cioè, tu la cosa che proprio odiai, sì, questa cosa fa schifo. Sì, però funzionava. Mi ricorda, anzi, quelle, milioni di radio anni 80, queste proprio dei quartieri di periferia, che erano solo fatte di quello. Sì, praticamente sì, erano, certo, telefonate. Aspetta, con le tetiche, no, più con la tetica radio, di una canzone di Pupo. E... bravo, no, dei Nomadi. I Nomadi, io l'ho visto, cioè, questa cosa l'ho vista fare i Nomadi. Andiamo a vedere i Nomadi. Anni, proprio da bambini così, cioè passano più tempo a salutare. No, devo salutare che piuttosto che canzoni. Questa cosa fa schifo, però vabbè, perché non farla? Però siamo trash, insomma, certo, quindi, beh, quindi. Più trash. E vabbè, dai, faccio, ricordo anche il come si chiama il titolo, dove possiamo trovare, ah, dai, no, spingiamoselo, no, un pochino, dai. Becera, dai, no, volevo, beh, un po', beh, abbiamo fatto concerto, i saluti beceri. Ah, volevo parlare del concerto, prima parliamo del libro, poi ti, allora, dai, i Giorni Furiosi, io, vabbè, Stefano Tarquini, edito da Transeuropa, lo trovate dappertutto, quindi basta, insomma, andare sui siti dove si comprano le cose e c'è, o se no proprio sul sito di Transeuropa, che è una piccola casa editrice, una piccola grande. Di Roma, no? No, non è di Roma. Non è di Roma. È di Massa. Se lo prendete sulla casa editrice è anche meglio, ovviamente. E niente. Va bene. Ho detto la pubblicità, sì, beh, non possiamo, non possiamo nemmeno dire che lo vendi ai concerti, insomma, perché non credo. Beh, che... qualcuno sicuramente lo regalerò da ubriaco, però se lo comprate è meglio, hai visto mai? Ma tanto non andrà così. E niente, Vabbè, saluto anche i palcoscenico che mi stanno sentendo. Sì, e suoniamo sabato sera. Non dico niente perché ci no, avete... no, no, no, ci avete voi la sì, che è molto più. Lo sai come funziona? No, qui basta che fai la marchetta che dici che ci abbiamo. No, no, voi Marci su Roma. Sì, Marci su Roma, lo strike Roma, il 6. Strike. E noi casualmente proprio il 6 suoniamo da un'altra parte. Ma non è la prima volta che succede. Non è, purtroppo, ma essendo sì, non è la prima volta che succede. E... No, no, vabbè, al dissesto, dai, glielo dico io. Okay. Al dissesto a Guidonia, che è un po' la casa nostra, sì, dei palcoscenico da sempre. Certo. Quindi palcoscenico al Neon a Guidonia. Se non volete venire allo Strike a Roma, dove suona quella pletora di dischi che vi abbiamo detto, e volete rimanere, magari non uscite dalla macchina. Abitata a Guidonia, sì, certo. Insomma, Guidonia, Valle dell'Agnene, Tiburtina. Se per caso proprio non andate a Marci su Roma, sappiate che c'è un gruppetto che suona. E... sempre quello pure da una ventina d'anni, insomma. Eh sì, sempre più o meno là. Vai. Allora, dai, vi saluto con testa coda. E salendo gli scalini ad uno per confondere le lacrime alla vodka, tu, avvolta nei tuoi sogni parabrezza, inventi nuove parole deltaplano per guardare di sfuggita il tuo riflesso, barattando il tuo compenso col reale. We'll be right back. Grazie. Ci sei? Eccoci. Allora, sì, ciao. E ormai, ciao. Insomma, ogni mesetto ci sentiamo, penso. Sì. Con Pat, insomma, che di cui abbiamo piacere, in fondo stiamo a questo gioco, insomma, che non so se stai conducendo in maniera di proposito oppure insomma come al solito succede. Dunque, ci siamo sentiti verso la fine di luglio, metà luglio, non ricordo bene, dicendo insomma stavi alle fasi conclusive di preparazione del disco nuovo. E che c'eravamo, poi ci siamo risentiti un po' più tardi, in cui abbiamo cominciato a far sentire una delle tracce di questo disco, che si chiama Holland & Dozier. Poi, ed era forse i primi di ottobre, così, dicendo il disco uscirà a novembre. Ora ci sentiamo a novembre, ma il disco ancora non ha intenzione di uscire per ora. Insomma, stai cercando di creare una suspense, effetto annuncio, così come stile pubblicitario moderno, oppure c'è qualcosa di più banale dietro? Guarda, mi farebbe piacere dire che è tutta una strategia di marketing, ma purtroppo è un disco che sembra infinito, anche se questa sera ai vostri microfoni penso di poter affermare che il disco sarà nelle nostre mani per novembre, quindi diciamo che se questa promessa almeno l'ho mantenuta, quindi vabbè, per tenerci larghi ai primi di dicembre, okay. Il disco sarà fuori, okay. Benissimo, disco che si chiamerà, pure questo qui lo possiamo dare come anticipazione? Sì, si chiama Mono Stereo. Mono Stereo, sì. Ne avevamo forse già parlato di questa, sì, cosa, perché Mono Stereo, c'è sicuramente molto passato e molto presente, e probabilmente molto futuro, insomma, almeno dalle anteprime che abbiamo avuto modo di ascoltare, molta tradizione cantautorale italiana, di quella bella, di quella degli anni 70 e 80, insomma, e anche molta modernità nel raccontare. Abbiamo parlato fino adesso di parole dalla e della periferia, ecco, anche con te penso che un po' vale, no, questo discorso. Sì, sì, certo, certamente. Ma il titolo, guarda, Mono Stereo, io l'ho scelto per un paio di motivazioni. Una è quella strettamente tecnica, perché questo è stato il primo disco dove, dopo vari fallimenti in altri studi, mi sono cimentato nel mixaggio, quindi c'ha prima di tutto un significato tecnico, ovvero il mono stereo proprio delle tracce. E poi avevo dato pure un altro significato un po' più filosofico, dati pure gli ultimi due anni che abbiamo passato, mono stereo, cioè come mono come la persona singola e stereo come aperta, diciamo, ad altre vie verso l'esterno, visto che siamo stati confinati dentro casa per quasi due anni, quindi è un titolo un po' abbastanza azzeccato. Ok, e cosa ci hai regalato per stasera come ulteriore anteprima, e se ce ne vuoi parlare? Si tratta Ho fatto uscire un altro pezzo tratto dal disco che si chiama Luci della città, e rispetto al pezzo precedente, proprio dal punto di vista delle liriche, è un po' più attinente a quello che ho sempre fatto, ovvero è una storiaccia proprio di periferia, come dicevi prima. Che come al solito io raccolgo, ascolto e poi cambio nomi, cambio posti, ma insomma la storia di base è tutta storia vera, tutta cronaca vera, sì. A parte, vabbè, cioè, poi sentirete, c'è un finale abbastanza tragico che è un po' enfatizzato, ma la storia, bene o male, come si svolge, è tutta vera. Poi chiunque ha vissuto in una periferia non stenterà a ritrovarsi nelle parole. Quindi diciamo, questo pezzo rispetto all'altro è molto più sulle corde mie solide, insomma, storie sentite e riproposte in musica, diciamo. Ok, allora, prima di ascoltare il disco, ritorniamo un attimo su questa genesi del disco lunghissima. Essenzialmente è il perfezionismo tecnico che ti porta, che ti ha portato un pochettino a posticipare le date, oppure è un problema proprio così di tempistica invece per la produzione proprio fisica del disco, insomma, è la messa? Un po' tutte e due, un po' più che perfezionismo lo chiamerei una specie di nevrosi che si è sviluppata, perché un'ossessione. Invece io andavo sempre all'ombrelob, invece di andare all'ombrelob mi sono affidato a un altro studio, lo posso nominare, insomma, l'El Smell, che sta vicino a Ostia. Sì. E soltanto che il ragazzo che lavora lì all'El Smell l'ho fatto letteralmente impazzire, perché non riuscivo a comunicare bene o male come volevo questo disco, l'ho fatto diventare pazzo. Alla fine il disco l'ho ripreso in mano e l'ho mixato da solo, e poi è stato masterizzato e finalizzato sempre al solito Ombre Robo. Oh, ok. E poi ci sono stati ovviamente pure dei disguidi tecnici, tra l'altro alla fine abbiamo dovuto optare per il CD. Non troppo a malincuore, perché non sono particolarmente un feticista del vinile. Però non so se hai sentito, io pure ne ero all'oscuro, l'ho saputo da poco, c'è una crisi mondiale del vinile a quanto sembra. E tanta gente che doveva uscire in vinile ha dovuto annullare. Ma proprio del materiale? No, non lo sapevo. Proprio, cioè, della plastica? Sì, c'è una, sì, sia della plastica, sì, perché praticamente a grandi linee è successo che c'è stata un'intensificazione della produzione del vinile da parte delle grandissime lobby, delle grandissime case discografiche, e quindi hanno sovraccaricato relativamente pochi stabilimenti di produzione dei vinili. E non c'è più in Europa, l'hanno super sovraccaricati, e quindi hanno finito le materie prime, hanno monopolizzato le macchine, e quindi non ci sono più nei tempi né i costi sostenibili per noi per far un vinile al momento. Quindi fortunatamente non sono particolarmente legato al vinile piuttosto che un altro supporto, quindi per me l'importante è l'uscita, e abbiamo ripiegato sul CD. Va bene, quindi ci lasciamo appuntamento per i primi di dicembre. Adesso ci sentiamo Luci della Città, Pat, dall'ultimo lavoro 2021. Ok? Perfetto, un abbraccio. Mono stereo. Grazie, ciao, buonanotte. Ciao. Nuovo non era male, dai, lasciava aperto a tutti quanti, e dopo scuola, prima di tornare per mangiare, facciamo erba tra le statue dei santi, e la mia vita scivolò così, cieco di rabbia come un animale. A volte mi chiedo perché ci hanno chiuso tutti qui, che il più pulito c'ha la condizionale. E penso, mamma, solo torni di notte al bar, papà se n'è andato con Dio, e da questa galera io non riesco a vedere le luci della città. Germano Fabri è un tipo eccezionale, prima bandito e poi rapinatore. Era il 90 quando seppellì la sua pistola, ha costruito sto quartiere in 24 ore. La mia famiglia ebbe la casa nuova lungo la strada per il centro edile. La notte costruiscono martello e sedia senza tregua, e la mia stanza non riesco a dormire. E penso, mamma, solo tu di notte al bar, papà sei andato con Dio, e da questa galera io non riesco a vedere le luci della città. Stefania aspetta alla cabina, sì, che vuole andare a ballare, ma sai com'è la vita, due pasticche, mezzo trip, io e Germano sull'Aurelia verso il mare, e mezza boccia di whisky, e si parlava di impicci, fregia negli Emirati per i cani avvelenati, vestiti giusti e intenzionati sbagliati, ma troppo rumore per roba da niente, non l'ho toccato nemmeno un sergente. Germano non sapeva che la bimba ha 15 anni, e per difenderla mi becco 20 anni. Ma io vengo da un Vietnam di palazzi scuri, non è un arresto, questo è un trasferimento. Ogni domenica Stefania arriva in parlatorio, il suo profumo mi divora. E

16 minuti dopo la mezzanotte, 25 o'clock, ai controlli ancora per qualche minuto. Ossia per i minuti necessari. A chiudere la trasmissione abbiamo ascoltato quindi Pat con Luci della città, tratto dal disco che ancora è in là da venire. Si parla della pubblicazione del disco per dicembre, alcune anticipazioni, la traccia la potete trovare anche in internet, insomma sulle solite piattaforme. Di seguito abbiamo ascoltato Sorella Minore, tratto dall'ultimo lavoro invece pubblicato ormai un bel po' di anni fa dai Palcoscenico al Neon, che si chiamava Radice di Due. Poi Frontiera, Homp sul confine, traccia che concludeva l'EP. Sulle impronte dei giganti. Cantata in dialetto valdostano. Ed ora invece in chiusura Baghi da pietra, Verme ora zolle. Vabbè, la programmazione di Radio Onda Rossa finisce qui. Vi ricordiamo ancora per sabato prossimo Marci su Roma, Nessuna Tregua, volume 3, Tear Me Down, Cookie Wire, Krav Boca, Afora de Arastu, Now Witarag, Congegno, Scheletro, Roadster. End Leg Reaction. Il tutto al Strike SPA. Sabato 6 novembre 2021, via Umberto Partini 21, Roma. La cena è a cura dei cucinieri e delle cuciniere di Radio Onda Rossa, ormai affermatissimi. Cucina aperta fino a tardi, cioè fino a che non si finisce di suonare Marci su Roma. Un'altra iniziativa per sostenere Strike e Radio Onda Rossa. Le programmazioni in diretta della radio finiscono con noi, vi lasciamo in compagnia della compagna Automatica Sonata, si riprende alle 8 di mattina con la lettura delle prime pagine dei quotidiani, la rassegna stampa cittadina e redazionali della mattina, fino alle 14 insieme comunque a un bel po' di selezioni sempre dell'Automatica Sonata. Dicevamo fino alle 14 quando c'è tutta scena cinema. Alle 16 Attica Blues oltre al Black Music. Alle 17 Le Schiene del Soul, ormai mischiata, contaminata con il Mezzeres del giovedì a parlare anche e soprattutto di cose del Latin America, ma anche quando necessario di altro. E poi alle 20.15 Tabula Rasa, la trasmissione sui libri di Tenda Rossa. Alle 22 è ritornato almeno sul palinsesto la scritta Apostasia. Ci auguriamo che i cuginetti vengano e ritornino a trasmettere al più presto. Il nostro saluto più importante va a tutte e tutte coloro che ci ascoltano da condizioni di limitata libertà personale, carcere, latitanza, clandestinità, arresti domiciliari, tutte le varie forme di decreti amministrativi che ci limitano sempre nelle nostre libertà. Quindi un saluto a Ciccio che ci ha accompagnato questa sera fino a quest'ora. E noi ci risentiamo mercoledì prossimo. Chissà che, appunto, abbiamo parlato di vinili, sia in diretta sia fuori. Non facciamo una trasmissione tutta di vinili. Bella così, dai. A mercoledì prossimo. Ce ne andiamo sotto la luna comunista. Let it begin.